Signora mia, mi scusi se ho suonato, ma non so che cosa sia la voglia di parlarle che mi ha preso. È stato come un fuoco che si è acceso. Signora mia, non riuscirei a dormire se lei mi mandasse via. Lo so che non è l'ora, ma io devo dirle che negli occhi miei sapesse quante volte si è fermata. E nei miei sogni la vedevo addormentata. Di notte io guardavo nella sua finestra chiusa, immaginavo tutto, ma non mi chieda cosa. Perché arrossisce? In fondo son venuto per scambiare due parole. Se è troppo, non mi dia più confidenza, però mi dia almeno una speranza. Signora mia, io abito di fronte nella stessa casa sua. Adesso me ne vado, ma io devo dirle che, signora mia, sapessi quante volte ti ho sognata e nei miei sogni ti vedevo addormentata. Di notte io guardavo nella tua finestra chiusa, immaginavo tutto, non domandarmi cosa. Ho sognata e nei miei sogni ti vedevo addormentata.